Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì. La prima puntata del 2020 di Hashtag Autotrasporti va in onda il giorno dell'Epifania e la Befana porta notizie preoccupanti per il prezzo dei carburanti, notizie chiaramente legate agli scenari internazionali di questi giorni che mettono il mondo in allarme. Sin da venerdì i venti di guerra hanno innescato la corsa al rialzo del petrolio. Va ricordato che in Italia i listini sono tra i più alti d'Europa anche per effetto del peso delle accise. Solo in Svezia il pieno costa di più. Nel bilancio di un'azienda di autotrasporti il costo del gasolio poi incide per circa il 30% e di qui i timori della categoria. Facciamo il punto con Piero Savazzi di FIAP, che è la Federazione Italiana degli Autotrasportatori Professionali. Una delle più immediate conseguenze dal punto di vista economico generate dall'innalzamento delle tensioni internazionali nei paesi dell'area medio orientale è l'incremento del costo del greggio, che dopo gli ultimi eventi verificatisi in Iraq è salito ai valori massimi degli ultimi 4 mesi e i valori sono comunque ancora in crescita. Essendo questi i valori di acquisto del greggio in scadenza marzo 2020, è più che plausibile un aumento del prezzo industriale del raffinato, ossia i carburanti. Sappiamo benissimo che la dinamica dei prezzi di vendita del carburante raffinato segue anche altre leggi di mercato, ma purtroppo la situazione è questa ed il riassorbimento degli aumenti, lo sappiamo benissimo, è sempre lento. Che vi fosse una tendenza al rialzo complessivo dei prezzi nelle ultime settimane dell'anno appena chiuso era evidente e già nei dati del Ministero rilevati tra novembre e la metà di dicembre del 2019 si è notata la differenza, anche in relazione ad un cambio euro-dollaro non propriamente favorevole per la valuta europea. Quindi i presupposti per un peggioramento dello scenario tra costo industriale, accise e IVA ci sono tutti. Attendiamo comunque la chiusura delle rilevazioni per il 2019 e i dati di dicembre non sono ancora stati resi noti e l'ultimo dato medio disponibile è datato 16 dicembre e le prime rilevazioni dell'anno per avere a disposizione le basi per le giuste valutazioni. Un altro fronte caldo di queste settimane, di queste ore, è il porto di Genova con l'emergenza viabilità sul nodo autostradale ligure, carreggiate ridotte sui viadotti, chiuso il tunnel sull'A26 dopo il crollo di una settimana fa, cantieri per le frane, per la sostituzione delle barriere fonoassorbenti con chiusure notturne, l'operatività dello scalo e quindi l'efficienza dei servizi logistici sono messi a dura prova ormai da settimane. E sulla questione Genova è intervenuta anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ha parlato di una situazione di enorme complessità che sta comportando un notevole riflesso economico e sociale. La difficoltà della circolazione dei camion da e verso il porto genera ritardi nell'attività economica e crea disagi consistenti alla popolazione. Queste le parole della ministra. È collegato con noi Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Buongiorno Signorini. Buongiorno a voi. Tra Genova e Roma sono stati giorni di incontri per affrontare l'emergenza. Quali sono le misure sulle quali si sta lavorando per gestire la viabilità da e per il porto? Innanzitutto è in atto un confronto tra società autostrade, Ministero delle Infrastrutture e istituzioni locali per programmare i cantieri che interesseranno tutta la rete autostradale ligure. L'obiettivo è avere sempre almeno 2 corsie per senso di marcia, viceversa i tempi di percorrenza diventano veramente quasi insostenibili. Una seconda misura che è già stata in parte realizzata con forti sconti sulla rete, sia per mezzi pesanti che per la viabilità leggera. Le 2 principali misure che sono al momento allo studio per gli autotrasportatori riguardano forti sconti che possono arrivare fino all'azzeramento, questo è in fase di verifica, per gli autotrasportatori che utilizzano la rete autostradale, quindi per il viaggio che l'autotrasportatore fa con origine e destinazione al porto di Genova. Dall'altro, voi sapete che ci sono già indennizi previsti per gli autotrasportatori a valle del crollo del Ponte Morandi. Stiamo pensando a utilizzare questi indennizi al fine di decongestionare l'arrivo, il transito al porto di Genova, ad esempio riconoscendo indennizzi superiori a chi arriva fuori dalle fasce orarie di punta, associando ovviamente, ma questo sarà una decisione politica, la decisione appunto di aumentare le risorse destinate all'indennizzo complessivo sia degli autotrasportatori sia di altre categorie, penso ai terminal, dovessero operare ad esempio in via anticipata la mattina presto o durante la notte. A proposito degli orari di lavoro, c'è l'ipotesi di anticipare dalle 6 alle 4 l'inizio delle operazioni in banchina, signorini. Questa è una discussione sull'orario, diciamo tra le 4, le 4 e mezza, le 5, che approfondiremo proprio nei prossimi giorni. Noi abbiamo già invitato, sollecitato tutte le categorie a verificare, fare alcune simulazioni. È ovvio che l'impatto sul ciclo produttivo è molto elevato perché riguarda tutta la filiera, no? Cioè riguarda la merce dove si carica e scarica nell'entroterra, riguarda l'autotrasportatore, riguarda tutti quelli che operano i varchi portuali e riguarda i terminal. Telegraficamente, in conclusione, quali consigli si sente di dare agli autotrasportatori che operano sul porto di Genova? Sicuramente, ma gli autotrasportatori lo sanno benissimo, una grande attenzione a tutto il nuovo apparato di comunicazione che stiamo studiando con le istituzioni locali, con ASPI, la prefettura, per capire momento per momento qual è l'impatto sulla viabilità essenzialmente dei cantieri. Questa è una misura chiaramente precauzionale. La seconda, invece come categoria, come associazione, noi certamente ci vedremo nei prossimi giorni, avere uno spirito collaborativo sapendo che le istituzioni sono molto consapevoli dei disagi che stanno subendo. Quindi, secondo me, la possibilità di trovare una soluzione di compromesso è alla portata. Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, grazie per essere intervenuto ad Hashtag Autotrasporti e buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. Rimaniamo a parlare di porti. Per il progetto Trieste Rail Port, la Banca Europea per gli investimenti ha concesso al porto di Trieste, più precisamente all'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, un prestito di 39 milioni di euro e fondi per altri 6,5 milioni da parte della Commissione. L'erogazione sarà utilizzata per il potenziamento dei 70 chilometri di binari interni al porto che collegano i moli alle reti ferroviarie nazionali ed internazionali. Secondo le stime, durante la realizzazione del progetto, l'occupazione crescerà di 400 addetti per anno. È stato pubblicato sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale il bando per l'aggiudicazione della progettazione del cosiddetto ultimo miglio ferroviario al porto di Civitavecchia. Il progetto prevede investimenti complessivi per 18,5 milioni di euro. L'Autorità di Sistema Portuale ha ottenuto un contributo a fondo perduto di quasi 4 milioni di euro dalla Commissione europea. Un incremento dei bandi di gara del 50% rispetto al 2018 per un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro e il dato saliente del bilancio 2019 di ANAS. Ne parliamo con l'amministratore delegato Massimo Simonini, che è in linea con noi. Simonini, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, ci faccia una fotografia del 2019 visto da ANAS. Il 2019 è stato un anno molto impegnativo perché abbiamo avuto una ristrutturazione aziendale importante che però ha dato anche i suoi frutti perché già abbiamo avuto una crescita, quindi siamo arrivati al valore di 2 miliardi, 4 miliardi e 2, il valore complessivo dei bandi banditi quest'anno, quindi il 50% in più rispetto all'anno scorso. E abbiamo superato anche del 13% il valore previsto per l'anno scorso della manutenzione programmata, quindi ci attestiamo intorno ai 647 milioni di euro e abbiamo sbloccato cantieri per oltre 2 miliardi e mezzo, quindi tutto sommato ritengo che già da questi pochi dati possa intravedersi un'attività abbastanza intensa di ANAS che ha dato già i suoi buoni frutti. Il decreto milleproroghe prevede che ANAS possa subentrare nelle concessioni autostradali in caso di revoca. Chiaramente parliamo di una delle questioni più dibattute in questi giorni a livello politico e non solo. Di fronte a questa possibilità, ANAS è pronta? Beh, l'azienda ovviamente certo è pronta, consideri che noi L'anno scorso abbiamo ricevuto dalle province circa 3.500 chilometri, quest'anno ne aspettiamo altri 3.700. Consideri che ci arrivano strade in una fase abbastanza disastrata, senza risorse, senza mezzi, senza niente. E diciamo li stiamo gestendo nella maniera più opportuna, stiamo ristrutturando, stiamo rimettendo a posto queste strade che si trovano in una situazione difficile. Avere, diciamo, una rete autostradale che tutto sommato sotto tanti profili è sicuramente migliore e non ci desta particolari preoccupazioni. Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS, grazie e buona giornata. Grazie a lei. Su strade ed autostrade è pronto a scattare il piano neve per evitare blocchi ed ingorghi. Sulla questione intervenuta CNA FITA, lo Stato deve vigilare che i gestori di strade ed autostrade attuino in modo tempestivo tutte le procedure tecniche in caso di neve, scrive l'associazione. È fondamentale garantire lo spargimento di sale, l'intervento delle lame sgombraneve, le risorse umane a disposizione devono essere coerenti con un pronto ed efficace intervento che, in occasione di precipitazioni nevose, garantisca la circolazione dei mezzi pesanti. CNA FITA ha chiesto anche che i rappresentanti dell'autotrasporto partecipino ai comitati operativi viabilità per contribuire al superamento di particolari e specifiche criticità. Oggi, giorno dell'Epifania, il fermo dei tir terminerà alle 22. Esaurito il periodo delle feste natalizie, il prossimo stop scatterà domenica, sempre dalle 9 alle 22, come previsto dal calendario dei divieti 2020. Per Pasqua lo stop interesserà fasce diverse 5 giorni consecutivi, da venerdì 10 aprile a martedì 14 aprile. Termina qui oggi #autotrasporti, era la prima puntata del 2020, vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda dalle 13.15 con Container. Come sapete, un approfondimento su questi temi. Grazie per l'attenzione. Noi ci risentiamo con #autotrasporti lunedì alle 13.45. Da Andrea Ferro, una buona giornata. #autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.